La zanzara extra. Sai cosa vi dico, ragazzi? Tutto il giorno che litigo con la ragazza, ma adesso il mio pacchetto di sigarette, i miei 300 km in macchina e zanzara per la vita. Fabrizio, provincia di Roma, dai Fabrizio. Buonasera ragazzi. Dimmi Fabrizio, dimmi. Allora, stasera mi hai toccato degli argomenti. Intanto ho chiamato perché volevo raccontare una cosa bella che mi è successa. Dimmi Fabrizio. Comunque, dimmi. Mi ha parlato del San Camillo perché, no, aspetta, vabbè, prima la cosa bella, dai, prima la cosa bella, poi dopo. Volevo parlare, prima la cosa bella, poi dopo, vabbè, mi sono innamorato di una puttana. Vabbè, ma adesso così, detto così, come, ma... E lei dove sarebbe, sì, questa prostituta? Lei sta qui a Roma, via Ostiense. Via Ostiense, ma ancora, sì, ancora... È prostituta? Ancora, cioè, ancora lavora? Ancora lavora nel pestare? Certo che lavora, mica stiamo insieme, non sono riuscito a tirarla fuori da, diciamo, dalla situazione. Non state, non state insieme? No, no. E no, lei, no, no, anche lei è innamorata di te o no? Questo non lo so io, perché veramente come non gli ho sai? Fatto ancora completamente l'avance, perché siccome ci tengo veramente e sono innamorato seriamente, ma non ho è paura vero, di fare qualche mossa sbagliata e perderla. Ma scusa, quante volte ci sei andato da questa signorina? 4-5 volte, ma non ci sono andato solo per fare sesso, ci sono passato una volta per portargli dei cornetti la mattina, una volta ci sono passato la sera, la volevo invitare a mangiare la pizza ma non poteva perché stava poco bene. Come si chiama? Liu. Liu. Si chiama Liu, ma è che cinese. Cinese, signora Liu. Cinese, sì. Cioè, tu che vorresti fare? Vorresti togliere dalla strada? Vorresti... No, non è a casa. Lei, no, lei lavora e vive dentro una casa, un appartamento con un'amica, un'altra cinese come lei. Lei mica sta per strada. Ah, no, no, per io strada. Non vado per strada. No, ma non c'è niente di strano. No, no, no. No, non è che non c'è tanti niente. Tanti auguri per il suo amore. È più rischioso, capito? Tanti auguri per il suo amore non corrisposto. Che bisogna scusa, dire. Questa... Beh, non lo so se ancora non corrisposto, David, perché diciamo, auguri, ancora non mi sono proprio dichiarato, ecco. Ma ho capito, sì, ma possiamo aiutarti, possiamo aiutarti o no? Puntate a seguire questo amore, dai, che dobbiamo fare? Possiamo ormai... Ma no, aiutarmi no, l'avevo chiamato solo perché mandava di raccontare questa cosa, perché mi state simpatici, lo ascolto sempre, mi piacete. Ma scusa, ma possiamo chiamarla lei o no? Sì, se la vuoi chiamala, mica sono geloso. Ma ce l'hai il numero? Ce l'hai il numero? Io l'ho dato a un tuo assistente, mi ha chiamato un tuo assistente. Chiamiamo, dai ragazzi, facciamo su, resta qui un attimo collegato. Fermo. Io all'inizio neanche io volevo dare il numero, perché no, vabbè, dico, è normale dare per la privacy. Invece mi ha detto no, vai tranquillo, io l'ho dato, senza problemi. No, parlateci prima voi però, dietro là, con i telefoni, parlateci prima voi. Prima magari voi. Magari chiama, arriva un amico tuo e dice, oh, a stronzi, l'abbiamo fregato. No, amico no, mio, ma qui per carità, io ho sempre il sospetto di avere per carità, era ruba a casa dei ladri, tutto, sai. Sì, sì, cioè, esatto, sì. No, non vorrei... Lei sa, qui chiamano tanti sbandati che... No, ma quella amica, con chi stai a parlare, Fabri? No, sto guidando, caro. Ah no, pensavo che sei un tassista? Faccio l'NCC. Ah, fai l'NCC. Sono Fabrizio di Roma NCC. Ah, e che ne so, io ma conosco tante persone. Vabbè, lo sto chiamato più di una volta, non te puoi ricordare tutti, c'hai ragione. Aspetta un attimo, fammi vedere sta Liu, no se problem. Esiste o no. Yeah. Ah, stai, stai con uno straniero. No problem, che sei, con uno straniero stai, no problem. No, sì, esatto. Sì. Amico mio, NCC. Tutto regolare, immagino, no? Tutto... Certo che è regolare, è ovvio. Io sono una persona onesta, Giuseppe. Che deve fare, poveretto? No, ma figure, io conosco tanti NCC. Anche Parenzo, per esempio, non va coi taxi, va sempre con NCC. No, non usa i taxi, odia i taxi, per esempio. Ma, non è... ma perché devi dire odia i tassisti, ma non è vero. E preferisce gli NCC, in particolare quelli abusivi. Se ma sono abusivi. Grazie, David. Ma perché comunque la mela marcia è dappertutto. Ma non è perché mi devi scatenare contro i miei amici tassisti, che peraltro mi conoscono perché mi vedono e sanno che sei menzionero. Scusami, Fabrizio. Chiama e risponde una aspetta, risponde un'asiatica che dice no sono io, no sono io. Segreto, perché quella chissà, dipende che gli avete detto. Se tu fai finta di chiamarla perché sei un cliente, non vedo perché non te deve rispondere. Aspetta, allora dai, fate il numero. L'amore non c'è più. Aspetta, aspetta un attimo, Fabri, aspetta un secondo. Anche di lì ubito. Tanto c'è sempre il cliente. Come dei presenti per telefono. Ma che americano questo qua? Ma pensa te se sulla radio della Confindustria devi occuparsi di Liu, prostituta cinese di cui si è innamorato questo simpatico. Aspetta, aspetta un attimo. Pure te c'hai ragione, David. No, ma non lo so, faccio per dire, però. No, sì, perché dipende come esordisci, Giuseppe. Liu, pronto? Pronto? Scusa, io non capito, tu hai sbagliato. No, non ho sbagliato, io sono, voglio essere cliente, scusami, cliente, numero dato da amico. Io non capito. Io sono cliente. Ma perché parli un italiano così? Pronto? Io non parlare poco. Poi, dove posso venire? Voglio fare cliente, voglio fare amore. English. Io non capito, scusa. Excuse me, Fabrizio, parla tu, aspetta che ti passo Fabrizio, un attimo. Pronto? Fabrizio. Pronto, ciao bellissima, sono io, sono amici, tranquilla. Sono amici che ti stanno chiamando, ti volevano conoscere perché hanno saputo da me che, insomma... Scusa, io non capito, io parlare poco, scusa. Ma allora tu non sei Liu, no, riconosco la voce, tu sei l'amica, tu non sei Liu. Niente ragazzi, attaccate perché non è lei, è l'amica, non so come si chiama. Ma come si chiama, come ti chiami Scusami, tu? Liu, attaccata al socco. Ti non in fa uso Giuseppe, capito come? Ma il numero che hai dato tu. Risponde. Cioè, sta nascendo una vera e propria simpatia, infatti. Cioè, ripeto... Però scusami, il numero me l'hai dato tu, nel senso che magari condividono il numero quelle due. Esatto. Probabilmente sì, perché una volta io sono andato a trovarla. Lei non c'era, non lo sapevo, ho trovato solo l'amica a casa. Capito, e tra l'altro gli buzza pure l'alito all'amica. Mamma mia, pare che ha mangiato una ghiaccia. Un attimo, ragazzi. Davvero, Giuseppe? Di cosa esattamente? Allora, scusate. Era interessante questa cosa qui. Tu voti per il sì, Fabrizio? Sei a favore del sì o del no? No, io voto. Voti no. Non puoi dare a sti quattro magnaccia, pregnacciari, ladri, pagliaccioni. Vabbè, ma questo adesso siamo... Poi, parliamoci chiaro. Questo io non so governo, se il comitato del no dove c'è Settis... Esatto. Una cosa più democratica di questa non esiste. Ma chi ci ha voluto là, Renzi? No, non tocchiamo questo discorso, Giuseppe. Volevo parlare di una cosa bella, no, da merda come Renzi, capito? Capito, cioè... Che allora, la puzza solo a nominarlo, pure per telefono. Io, il signore qui presente, voterà come voterà, per esempio, il professor Flores d'Arcais. Ecco, ma non uso come gli stessi argomenti. Voterà come Zagrebelsky, per esempio. Zagrebelsky come Fabrizio. Come votano gli altri, uno è libero, per carità. Tu conosci il professore Zagrebelsky che voterà come te a referendum? Ma lo conosci il professore Zagrebelsky? Sì, l'ho sentito parlare. Non sono così addentrato. Che fa però di mestiere il professore Zagrebelsky, secondo te? Professor Zagrebelsky, secondo me, è un esperto di comunicazione, diciamo? No, è un di costituzione, però va bene, di costituzione. Vabbè, ragazzi, non sono addentrato, l'ho no, detto. No, ma ha ragione. Comunque sa chi è Zagrebelsky. Però, David, spero di portarti una volta con me, se ammazziamo le ride. Volentieri, caro, volentieri. Io non ti parlo di buttare. Richiamiamo un attimo Staliu, perché la cosa mi piace. Ma l'amica sua, Giuseppe, dammi retta. Lo so, ma adesso, però state zitti voi, mi presento come un cliente. In inglese, devi parlare in inglese, però. In inglese, questa che cazzo ne sa manco l'italiano. Pronto? Scusa, tu sbagliato, io non capito. No, ho capito, però io voglio capire una cosa. Io posso venire da te e fare amore? No, scusa, io non capito. Posso venire a fare l'amore da te? Io pagare con soldi? No, scusa, io non capito. Scusami, amica mia, tu essere puttana o non essere puttana? Niente. Ma Giuseppe, questa c'ha paura che sto guardia, hai capito? Dici, non dici. Non si fidano. Secondo me sì, perché è strano. Oppure, ma non ho capito. Straniera, che cazzo ne so? Ma non ho capito, perché tu quando parli con uno straniero parli come un analfabeta. Ma che roba è? È una forma di razzismo. No, lui, Cruciani. Come dice, io non ho capito, posso poi venire a casa tua? Ma perché parli così come un analfabeta? Ma state con lei, no? La zanzara. La zanzara extra. Cioè, nel mondo succedono cose importanti e voi qua a parlare di cazzate. Cioè, non lo so. Pensa che, cioè, ma pensa che a Bangkok c'è uno che ha lottato un'ora e mezza con un pitone attaccato all'uccello. Cioè, voi a parlare di queste stronzate.